Cominciamo, incominciamo. Ciao ragazzi, ciao. Possiamo. DFD. Diego. Dovevo farmi la doccia ma puzzo da schifo. Frego. Caca nello spazio. Dennis. Ma trovati un lavoro, cazzo. Musica, musica, musica. Information. Perepe qua qua qua qua perepe. 360. L'informazione divertita. Di qua di là del piave ci sta un'osteria, la c'è da bere e da mangiare ed un buon letto da riposar. E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, poi bella mora, se vuoi venire, questa è l'ora di far l'amor. Mi si che venia per una volta sola, però ti prego, lasciami stare che son figlio da maritar. Se sei da maritare dovevi dirlo prima, sei sempre stata coi vecchi alpini, non sei figlia da maritar. E dopo 9 mesi un bel bambino, e dopo 9 mesi è nato un bel bambino, sputava il latte, beveva il vino, era figlio d'un vecchio alpino, sputava il latte, beveva il vino, era figlio d'un vecchio alpino. Noi su e siamo benvenuti, siamo arrivati qui a Radio San Donà 102-200 e ringraziamo il coro degli alpini, esatto, naturalmente, che sono qui con noi, che ci stanno come ospiti. Ci sono voluti 400 microfoni. Sono qui tutti quanti nel nostro grandissimo studio, il nostro studio di 400 metri quadri che abbiamo qui a Radio San Donà. Intervenuti, alza la base un po', perché è bello, è bellissimo, i canti degli alpini sono bellissimi, i canti corali in genere sono bellissimi. Sapete che anch'io cantavo in un coro una volta? Nel coro delle voci bianche? Esatto. Era un pargoletto. Bravo, delle bravo. Scuole medie, cantato 3 anni delle scuole medie, tutti e 3 gli anni nel coro. Comunque, eravamo molto bravi, eh? Comunque informiamo anche i nostri radioascoltatori che tra un po' avremo come ospite la vera e inimitabile orchestra filarmonica di Vienna. Sì, è nell'altro nostro studio, poi ci sposteremo nello studio B, che è lo studio ancora più grande perché ci devono stare pure gli strumenti. Ci saranno ben 2000 metri quadri, esatto, di studio. 2000 metri quadri di studio, tutto insonorizzato. Naturalmente stiamo facendo anche un po' di pubblicità alla radio, naturalmente, in questo frangente in cui l'immagine della nostra radio deve avere un qualcosa in più. Sicuramente. Ecco. L'immagine di Diego purtroppo non si può migliorare, perché fa schifo in sé Diego, quindi è una cosa difficile da mettere a posto. Effettivamente sarei piccolo, basso e tarchiato. ci hanno dedicato questa canzone. Allora, se volete, possiamo contribuire anche noi. Allora, voi a Vincia potete ascoltarci e cantare e anche cantare tutti insieme con noi, naturalmente. Dennis, naturalmente, nella voce più alta, nella voce diciamo più bassa. Più... Esattamente, cioè più. No, di solito una volta facevo quella più alta io. Comunque, allora, tu vai. Okay. Allora, andiamo. Monti a veste mar, oi la la, monti su pei monti che noi saremo, coglieremo le stelle alpine, perdonarle alle bambine. Nato, va bene lo stesso. Niente, va bene. Ringraziamo allora il coro che è venuto a trovarci oggi in radio. Se vogliamo un attimo dare i nostri contatti a casa, cosa ne dite? Diciamo che è iniziata ufficialmente una nuova puntata di DFD Team 360, l'informazione divertita, sempre qui su Radio San Donà, 102.200 la frequenza, il numero di telefono per chiamare in radio. Yeah, here we go, let's go now, siamo tornati qui, Radio San Donà, 102.200. Grazie Dennis, grazie Dennis del tuo aiuto. Grazie mille Dennis. È una giungla. Oh, questo là, eccoci. Saluto al coro degli alpini del Brankenstruinkums dell'Emputeratut. Comunque, eccoci, informiamo qua a tutti i radioascoltatori che per chi vuole mandare un sms e vuole romperci i maroni, bene, può farlo al 348 416 271 771. No, la prima pagina, che così diamo un aiuto a Diego oggi. Oh, grande! Oh, eccoli là! Allora, per... finalmente oggi Diego vi potrà dire i contatti perfetti di, sì, Facebook e della nostra casella per mail. Facebook di FD Team 360, mi raccomando, in parole. Oh, ce la fa! Naturalmente... Gliel'ho scritto. Questo sta nevicando, sì, eh? Sì. Naturalmente per l'email al dfd360@ yahoo.it. Vai. Tieni il tempo, Diego, tieni il tempo! Non c'è storia in questa città, nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta questa gente e non credere che tanto importa niente. Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti e con chi ti incontrerai. Ma non te la prendere, loro sono fatti così. Devi solo credere che un giorno nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai partire il ritmo, quello giusto. Dai una mossa e poi tieni il tempo, ascoltando le ultime riunioni di 8 ben 15 anni fa, vai. Domani tieni il tempo, vai avanti e vedrai. Tieni il tempo, il ritmo non finisce mai. Sono quasi belli per chi sa trovare i colori dentro nella testa. E allora vattene fuori che sta per cominciare la festa. Non ti lasciare andare se non ti vuole più. Adesso se la tira ma non sa che tu stai quasi per decollare. Quando volerai faranno a gara, se fare un giro gli farai. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai partire il ritmo, quello quello giusto. Dati una mossa poi, dati una mossa allora, ti ho detto. Ti ho detto di darti una mossa, sei sempre là che stai, stai attento. Non ne morti mai. No, comunque veramente, cioè, ma vi ricordate il tizio che tanti anni fa il karaoke che cantava sempre le canzoni 883? Mamma mia, in qualsiasi ragazzi, karaoke che esisteva c'era nell'Interland, lui c'era 883, infatti veniva c'era sempre, una cosa. Sì, ma si assomigliava anche. Sì, esatto, ma anche bravo comunque, niente a dire, la voce era precisa, era, lui, era uguale, bravo, bravo. Era un imitatore. Allora lo proprio. Salutiamo, magari se ci ascolta magari verrà a trovarci in radio. Ciao, non mi ricordo il nome, comunque Max, ciao a te. Io credo Max, si chiami, mi sembra di sì, Max Bezzali, era lui. Era lui, chiamiamolo così, no? Bezzali, Bezzente. Beh, cosa, abbiamo di, cosa abbiamo di sfondo? No, non abbiamo. Abbiamo The Race con sai quella della Cambretti Knight, quella lì che veniva sempre a fare la presentazione. Non lo so, io non guardo la televisione, quindi non so cosa sia neanche Cambretti Knight. Cambretti Knight era sì, il programma che conosco faceva... Cambretti. No, Chiappetti. Chiappetti. No, Chiappetti. No, ho detto io. Chiappetti. Che c'entra Chiappetti? Ma Chiappetti. Ti tiro una chiappata. Cambretti. Allora, oh, che fame che ho. Allora, andiamo avanti. Anche questa. Questa puntata, c'ho il filo che si è ingattiato. Io intanto mi gratta la barba con il con ragazzi, con il anarchia pura oggi su qui su Radio Sandonà. Siamo sempre noi, il DFD Team, che vi accompagnerà in questo bellissimo frangente del vostro tempo e vi farà, speriamo, sorridere con le nostre innumerevoli cazzate. Qui, infatti, a proposito di cagate, c'è un leggero olezzo qui. Comunque. Beh, come sempre, comunque. Allora andiamo avanti sì. Con un'altra canzone. Diego, vuoi spiegarci che canzone è, visto che è una rarità questa? Allora, guardate, questo qua è un album che è uscito nei metà anni 90 di Roger Taylor, oppure. Per gli amici Ruggero Sarto. Ruggero Sarto, sì. Naturalmente, chi sicuramente lo conoscerete è il batterista. Ex membro dei Regina. Esatto, anzi, no, tuttora membro dei Regina. Sì, scusate, il batterista. Tuttora, sì. Allora ce l'ascoltiamo. Vai. Ti do un bacioetto. There's just one thing that we all crave, from the cradle to the grave. State of grace or state of mind, a point in space or point in time. In times of war, the selfsame goal that we yearn for. Some have it all, but still have less. What we all need is happiness. Just can't be bought. Such purity, more precious still than gold. And happiness can't just be taught. When you're young or if you're old, no matter how hard you try, in your own life and through years, with every up must come a down. Enjoy the laughter and the tears of happiness. Bellissima, bellissima direi questa canzone, Diego, vero? Ma prima di tutto un plauso naturalmente al nostro regista, al nostro master of che sta lavorando con ben tre mixer. Sì, ecco. Sta lavorando con i tre mixer, sta lavorando veramente bene oggi il nostro Frego alla regia, e quindi un plauso al nostro Frego. Esatto. Grazie. Ma soprattutto grazie anche a voi, e grazie anche a Graziella e anche Frego. Grazie a lui. Comunque volevo allora presentare questo album qua di Roger Taylor. Quasi introvabile, se non introvabile addirittura. Quindi, come si intitola quindi l'album? Happiness, e anche la canzone era l'omonimo. Omonima canzone Happiness. Grande Roger Taylor, facente parte anche dell'attuale formazione dei Queen, che però ha delle divergenze rispetto al passato, Diego. Esatto, anche perché il bassista John Deacon è sparito nel nulla. Cercasi John Deacon, alias Giovanni Diacono. Esatto, John Deacon. E comunque la nuova formazione c'ha la batteria Roger Taylor, Ruggero Sarto, sì. Brian May alla chitarra, Briano Maggio, esatto, nonché Paul Roger alla voce, e Paolo Ruggero, esatto. Al basso non so chi cazzo sia, comunque è lo stesso. Al basso non si sa chi sia attualmente. Hanno fatto, se non erro, l'anno scorso, ormai no, 2009, scusate, ormai, quindi 2 anni fa ormai. E hanno fatto sia album che tournée, Queen più Paul Rogers naturalmente, Queen però in formazione diversa rispetto al passato. E comunque voci girano che stanno lavorando a un nuovo lavoro, vediamo. Non si sa, aspettiamo con ansia un nuovo lavoro, e naturalmente un grande saluto alla memoria di Federico Mercurio, quindi di Freddie Mercury. E passiamo al prossimo brano. Bravissimo. Tranquillo come quello di prima, oggi una puntata serena e pacata e tranquilla. Bene, adesso ci ascoltiamo un po' di chi? Di Pino Daniele, uè, ma che è? Pino Daniele, che è venuto a trovarci anche lui in radio oggi. Buonasera a tutti quanti. E abbiamo anche una notizia che Diego, con il suo linguaggio, il suo lessico meraviglioso. Diego non è così, in effetti. Gli sto ancora insegnando a leggere. Ma infatti, scusa, non volevo. Leggi questa parola qua, solo questa, solo la prima, Diego. Uri. No. Asu. Piano. No, il contrario. Allora. Azerbe Adremme de Norret, dai. Ni inni 11 id. Un saluto agli Adremme de Norret, famoso gruppo rock e metal di 10 anni fa. Ispirato agli Adremedus. Esatto. Bene. Allora, USA, polizia insegue auto. Al volante una bambina di 11 anni in stato di ebbrezza. Aveva bevuto. Era un po' ubriaca. Era un po' ubriachina. Vabbè. un inseguimento a folle velocità per le strade del Alabama, Greenbow, Alabama. Sono mica ubriaca io. Che si conclude con l'automobilista che perde il controllo del veicolo e viene acciuffato dalla polizia. Oh, sono mica ubriaca, io non sono. L'alcol. Ma l'alcol, che zozzetta questa viene... bambina. Ecco. Oh, sono mica ubriaca io. Quasi ordinaria amministrazione per qualsiasi sceriffo della provincia americana, vuol dire che lì bevono un disastro. Se non fosse che al volante di una fiammante Chevrolet Monte Carlo, la gente, a dir poco stupefatto, ha trovato una bambina di 11 anni in stato di ebbrezza. La ragazzina residente in Perdido Key ha perso la chiave. Secondo Florida. Me il vero guidatore se l'è nascosta nel portabagagli. Cioè, ma era dalla Florida la bimba, l'ha beccata in Alabama. Vabbè, è stata inviata a giudizio per guida in stato di ebbrezza a 11 anni. Vabbè. Brava la nostra ragazza. Sono in America. No, ragazzi, saluto agli americani, bene. L'America, andate. E allora gli dedichiamo questa canzoncina a questa bravina ragazzina. Sì, anche perché il bimbo non sta nella botte piccola. Eh sì, gli ha bevuto talento. Lei sarebbe avuta però. Motore! Legge, siamo tutti fuori legge qui su Radio San Donà. Bene, quindi questa qua era team. Outlaw. Piace? Era l'altra questa. Quella che viene dopo. Ah, ma che minchia stai facendo? Okay. No, ma era bella perché era mescolata volevo ascoltare, questa, no? Era bella però sovrapposta così. Bene, piace anche a me. Perché sentite? È vero? Ci sta tutta, vai Motorhead Mix Outlaw, tratto dall'ultimo album uscito ben un mese fa con i The Fresh Cool on the Gang. Sì Cool on the Gang, yes. The Gang Bang, direi. Cool on the Head, così sai, mix. Cioè praticamente il culo sulla testa. No, il culo in faccia. No, è da testa, sì, face faccia. The face. Brutto stronzo. Allora, bella napa, culo, va. Allora, bellissimo questo. Salutiamo, la regia ci fanno muoversi avanti, salutare, dare i contatti. Prima, no, vi dico quello che non vi avevo dato prima. Cioè, ci ascoltate in web radio su www.radiosandona.it. Radio Sandona, 102.200 la frequenza. Noi siamo TFD Team e questa è 360 l'informazione divertita. Parola allo Stercol. Eccomi qui, allora per gli sms 348-4162-771 di FD Team 360 in parole per la, per Facebook naturalmente di FD 360 @yahoo.it per le email. Devo dire proprio che sei una meravigliosa creatura di merda. Meravigliosa creatura. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti, pendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti, non svegliarti.